Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il termine italiano inventare deriva dal verbo latino invenio, che significa scoprire, trovare, venire a conoscenza. Più precisamente, deriva dal suo participio passato inventus e indica l'atto compiuto di donare l'esistenza a qualcosa che prima non ne aveva. Una parola antica, dal significato antico, molto più antico della lingua latina. La storia dell'uomo e del suo inarrestabile progresso è costellata per forza di cose da una miriade di invenzioni, dalla ruota sino all'aeroplano, tanto per farla breve. Ma non tutte le invenzioni che puntellano il percorso dell'evoluzione dell'umanità sono state di portata tanto gigantesca. Esistono decine, centinaia, migliaia di piccole grandi scoperte che, se non hanno letteralmente cambiato il corso della storia, hanno comunque prodotto delle rivoluzioni su scala più ridotta. Si tratta di invenzioni che hanno migliorato le vite di tutti noi e, prima ancora delle nostre, hanno decisamente cambiato le vite degli uomini che quelle intuizioni di fatto le hanno prodotte. Inventori che spesso hanno votato la propria esistenza alla causa di quell'unica, magnifica invenzione e che in cambio hanno avuto il sacrosanto diritto di imprimere su di essa il proprio nome. La melodia che sentite in sottofondo è quella di uno spot dei rasoi Gillette in onda in America negli anni 50. Mezzo secolo prima fu proprio Mr. King Gillette, imprenditore intraprendente, a costruire con mezzi di fortuna il primo modello di rasoio a lamette che soppiantasse il vecchio, affilatissimo rasoio da barbiere. La Gillette Safety Razors, fondata nel 1895, beneficiò soprattutto dei due conflitti mondiali, che videro l'esercito dotarsi in massa di migliaia e migliaia di rasoi di nuova generazione, più facili da maneggiare e di gran lunga meno pericolosi dei loro antenati. Ragazzi, insomma, vai! B-Crista! Tra-A! Sparentissima! È la B-Crista! Tu la puoi controllare! Trasparentissima! Nessuna resti guardare! La puoi vedere tutta! Tieni il chiostro bacio! Tra-A! Sparentissima! B-Crista! La penna di cristallo con sfera diamante. La penna di cristallo con sfera diamante, di cui avete appena sentito tessere le lodi, non sarebbe mai esistita se non fosse stato per un giovane inventore ungherese, Laszlo Józef Biró, che negli anni 30 del secolo scorso decise di dare un taglio alle perenni macchie d'inchiostro delle penne stilografiche. Fu proprio osservando alcuni bambini che giocavano a biglie per la strada che ebbe la felice intuizione del meccanismo che diede vita alla penna a sfera. Biró ci mise l'idea e Marcel Bic, ricco barone francese, se la comprò a suon di monete tonanti. E voilà, ecco la penna a sfera Bic. E che dire di questa celebre sequenza cinematografica? Non bussi mai. Vivian, avrei una proposta d'affari per te. Che cosa vuoi? Resterò qua fino a domenica. Vuoi passare la settimana con me? Davvero? Sì. Sì, io vorrei assumerti come dipendente. Prenderesti in esame di passare la settimana con me? Io ti pagherò perché tu sia ai miei comandi. Figurati, ai tuoi comandi ci starei e come, ma tu sei un ragazzo bello e ricco, potresti averne un milione gratis. Voglio una professionista. Non voglio problemi sentimentali questa settimana. Se parli di 24 ore al giorno, ti costerà un capitale. Ah, sì, certo. Va bene, sentiamo un po'. La cifra approssimativa, quanto? 6 notti intere, anche il giorno. 4.000. 6 notti a 300 fa 1.800. Vuoi anche i giorni, però? 2.000. 3.000. Andata. Orca Eva! Vivian? Vivian, quello era un sì? Sì. L'avete riconosciuta? È una scena tratta da Pretty Woman e la protagonista Julia Roberts si trova immersa comodamente in una gigantesca vasca da bagno. Non una vasca qualsiasi, ma la migliore in circolazione, una jacuzzi. A inventarla ci ha pensato Candido Jacuzzi, padre preoccupato per la salute del figlioletto di 15 mesi affetto da artrite reumatoide. Una vasca piena di bolle era quello che ci voleva per distrarre un bambino dalle noie e dai dolori di una brutta malattia. Un'idea semplice, ma allo stesso tempo geniale. Oggi parliamo di uomini che hanno contribuito a scrivere un bel pezzo di storia attraverso oggetti di uso più o meno quotidiano, entrati a far parte integrante delle nostre case, delle nostre vite, del nostro immaginario. Tra di loro c'è anche il nostro primo protagonista di oggi. Il suo nome è Levi Strauss. Levi Strauss. Nel 1829 Butenheim è una minuscola cittadina della regione della Baviera, in Germania. È proprio qui, nel piccolo cuore della vecchia Europa, che nasce colui che da grande diventerà un innovatore degno delle pagine dei libri di storia. Quel 26 febbraio del 1829, il futuro Levi, l'ultimo dei sei fratelli Strauss, viene registrato all'anagrafe come Loeb. Sarà solo una volta sbarcato in America che Loeb cambierà il suo nome nel semplice e riconoscibile Levi. Il viaggio oltreoceano è una scelta forzata e necessaria per la famiglia Strauss. Il padre Hirsch è morto di tubercolosi e gli Strauss sono in cerca di nuove opportunità. A metà Ottocento, l'America si è già imposta come la terra dalle infinite promesse, dove chiunque abbia un pizzico di intraprendenza e iniziativa può sperare di costruire la propria fortuna. Jonas e Louis Strauss, infatti, due dei fratelli maggiori di Levi, già da un paio d'anni si sono stabiliti a New York, dove si sono in breve distinti nel commercio all'ingrosso di tessuti, fondando la J. Strauss Brothers & Company. Il giovane Levi non perde tempo, inizia a lavorare con i fratelli più grandi. Il mestiere gli piace, diventa fin da subito un bravo venditore, attento alle esigenze della clientela e capace di fiutare i loro bisogni e desideri a distanza. E chi ha la fortuna di possedere del fiuto nell'America di metà Ottocento sa che le vere opportunità abitano ancora più ad ovest, in quel selvaggio West che nel 1853 è ancora selvaggio come lo si immagina. Il West è un luogo lontano e mitico, un paese dove la rete ferroviaria è solo poco più di un miraggio. Lontano, mitico e anche dorato. È proprio in cerca di pepite luccicanti e preziose che molti si spostano ad ovest, sperando in un futuro altrettanto splendente. Questo però non è il caso di Levi Strauss. Anche lui si addentra nel West, ma certo non in cerca d'oro. Ce ne parla Lynn Downey, responsabile dell'archivio della Levi Strauss & Company. Jonas Strauss had decided that it was time to send the younger brother out west. Jonas Strauss decise che era il momento di mandare il fratello più giovane verso la costa ovest per aprire da quelle parti una filiale della Jonas Strauss Brother & Co. Quindi il giovane Levi salì su una nave e andò verso l'istmo di Panama. Poi prese un treno e un mulo, arrivò dall'altra parte, poi prese un'altra nave nel Pacifico e finalmente approdò nella caotica, rumorosa, inquinata e puzzolente città di San Francisco. Levi Strauss non si addentra nel selvaggio ovest americano in cerca di materiali preziosi, ma lo fa per continuare a espandere il già ben avviato business di famiglia. Eppure il metallo luccicante c'entra in qualche modo. La cosiddetta corsa all'oro a metà Ottocento conosce momenti febbrili e migliaia di lavoratori migrano proprio in quelle zone, tra cui la California, dove si trovano notevoli quantità di metallo prezioso da estrarre. Le miniere si intasano di operai. È un lavoro duro, sporco, faticoso, che richiede determinazione, tempra fisica e anche un abbigliamento adatto. Se lavori nel settore dei tessuti, non puoi non essertene accorto. C'è una nuova leva di minatori che ha bisogno di una tenuta da lavoro adatta allo scopo. Servono indumenti resistenti alla polvere, alle intemperie, agli sfregamenti. Serve un materiale che non ceda per nessuna ragione al mondo. Levi Strauss non solo ha la stoffa dell'abile commerciante, ma ha anche letteralmente la stoffa giusta per confezionare la tenuta di lavoro perfetta: i blue jeans. È proprio qui in Italia, paese di santi, poeti e soprattutto di navigatori, che inizia la gloriosa storia dei blue jeans. E se si parla di navigatori, bisogna per forza trasferirsi a Genova, città che dal suo porto ha visto partire generazioni di marinai in cerca di fortuna. Gli intraprendenti navigatori genovesi nel XVI secolo iniziano a indossare pantaloni di tela blu, che in breve tempo finiscono sulla bocca di tutti, in particolare dei francesi, che coniano l'espressione blue de Gene, da cui blue jeans. Jeans è proprio la storpiatura di Gene, che in francese significa Genova, e identifica la città con la tela con cui erano fatti i pantaloni indossati dai marinai al tempo di Colombo. Quel tipo di stoffa, resistente e duratura, è perfetta anche per essere usata sulle navi stesse per fabbricare le vele e per proteggere le merci da trasportare dalla violenza del sole, della salsedine e delle tempeste. Il tessuto viene fabbricato in larga parte nella città francese di Nîmes, da cui deriva la parola denim. I pantaloni blue de Gene, insomma, sono fatti con la stoffa denim e fanno la gioia di moltissimi uomini. Si vocifera che persino l'ex marinaio Giuseppe Garibaldi, nella battaglia di Marsala, abbia indossato, come molti dei suoi garibaldini, un glorioso paio di blue jeans. Il denim è una stoffa che non può non fare gola a un venditore arguto come Levi Strauss. Per prima cosa se ne procura un ingente quantitativo. E poi, da bravo imprenditore, si mette in testa l'idea di produrci le divise da lavoro dei minatori di San Francisco. Il business degli Strauss non potrebbe andare meglio. Al numero 90 di Sacramento Street, nei primi anni in cui si è trasferito da New York, Levi apre un negozio che sull'insegna reca unicamente la scritta Levi Strauss. È vicino alla costa, comodo per ricevere i carichi che gli arrivano via nave da New York da parte di suo fratello Jonas. Nel 1856, Levi trasloca la sua attività in costante espansione in una sede più grande. La sua reputazione ormai è consolidata. Nel 1863, David Stern, marito di sua sorella Fanny, entra a far parte dell'azienda di famiglia, il cui nome si modifica in Levi Strauss & Company. Levi ha poco più di 30 anni, è già un affermato professionista, una figura di riferimento per l'intera città di San Francisco. Imprenditore illuminato e filantropo, attivo sia nel settore del commercio che nella vita culturale della sua città, promuove iniziative di ogni sorta, supporta la comunità ebraica e non si limita certo ad essere un'abile, avida macchina da soldi. Nonostante la sua statura di importante uomo d'affari, insiste perché i suoi collaboratori e sottoposti lo chiamino Levi e non Mr. Strauss. È il capo che tutti vorrebbero avere e la sua attività imprenditoriale sembra non conoscere battute d'arresto. Anzi, gli affari andranno ancora meglio. Levi sta per fare un incontro destinato a cambiare la sua vita e quella di milioni di persone in tutto il mondo. In un altro angolo d'America, infatti, c'è qualcuno che conosce e utilizza i prodotti della Levi Strauss & Company. Si tratta di un cliente regolare e affezionato, che è solito comprare grandi pezzi di tela denim per usarle nella sua sartoria. Non stiamo parlando di un altro venditore che si limita a rifornirsi di materia prima da una ditta più grande. Stiamo parlando di un piccolo artigiano, di un sarto. Il suo nome è Jacob Davis. Jacob Davis. Tanto per cominciare, Jacob Davis non si è sempre chiamato così. Ai tempi in cui nasce nella città di Riga, in Lettonia, di cognome fa Hughes. Emigra in America nel 1854 e cambia il suo nome, rendendolo più facile da pronunciare, proprio come ha fatto Loeb Strauss giusto una manciata di anni prima. Jacob fa il sarto a New York, ma non gli piace restare fermo, va ovunque lo porti la sua professione. E in ogni caso non si sente particolarmente legato nemmeno a quella. Certo, ha un'ottima manualità ed è bravo con l'ago e il filo, ma è un uomo talmente intraprendente da potersi permettere di fare praticamente qualsiasi cosa. O almeno è abbastanza coraggioso da provarci. Cambia continuamente città, da New York alla California al Canada e di nuovo alla California, per poi approdare nel 1867 in Nevada. Qui, a Virginia City, apre una rivendita di sigari, ma l'impresa si rivela sfortunata e nel giro di poco Jacob torna a fare il sarto. Si stabilisce quindi nella vicina cittadina di Reno, dove tenta di nuovo la fortuna e investe tutti i suoi risparmi in una fabbrica di birra. Ma l'esperienza negativa del negozio di sigari si ripete e dopo il fumo anche l'alcol si rivela un autentico fiasco per le sue povere tasche. Non resta che rimboccarsi le maniche e ritornare sui suoi passi. Dopotutto fare il sarto gli ha sempre fruttato più di qualsiasi velleità imprenditoriale. A partire dal 1870, Jacob Davis, dietro la sua piccola vetrina di Virginia Street, cuce tende e teloni per vagoni ferroviari, ricavandoli da enormi pezzi di stoffa, di cui si rifornisce presso la Levi Strauss & Company. Ancora non lo sa che la sua vita, proprio a partire dalla sua postazione, dove troneggia una pesante macchina per cucire, sta per cambiare radicalmente. All'apparenza è un giorno qualsiasi quello in cui una signora di Reno entra nel negozio di Jacob con in mano un paio di pantaloni davvero mal ridotti, appartenenti al suo grasso marito. La presenza fisica del gentiluomo in questione imporrebbe una riparazione urgente di quel povero paio di pantaloni bistrattati, oppure, meglio ancora, imporrebbe che Jacob Davis gliene cucisse un paio nuovo e ricco di accorgimenti strategici in grado di resistere a qualunque evenienza. E Levi Strauss in persona, in uno dei suoi diari, a parlarci dell'impresa di Davis. Un esperto ha sempre la risposta giusta, a patto che gli si faccia la giusta domanda. Un'energica signora di Reno chiede un paio di pantaloni nuovi per il suo altrettanto energico marito. Jacob Davis saprà rispondere alla sua legittima richiesta e lo farà coinvolgendo un imprenditore illuminato che di nome fa Levi Strauss. Tra poco, a Destini Incrociati. I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby. Destini incrociati. Destini incrociati è in America, intorno al 1870. Jacob Davis, titolare di un negozio di sartoria di Reno, in Nevada, deve rispondere alla lamentela di una cliente. I pantaloni del marito non sono abbastanza resistenti, si rompono troppo in fretta. Davis pensa di possedere la soluzione per lei e per le migliaia di lavoratori delle miniere del West americano, abituati a utilizzare i propri indumenti per giorni e giorni di seguito, nelle condizioni più proibitive. È Lynn Downey, responsabile dell'archivio storico della Levi Strauss & Company, a parlarcene. La maggior parte degli uomini lavoravano là fuori, in mezzo al nulla. Gli serviva un genere di abbigliamento che fosse in grado di durare a lungo. Jacob Davis è un uomo intraprendente, uno che il suo percorso umano e lavorativo se l'è costruito tutto da sé, in virtù della sua formidabile inventiva. È caduto svariate volte, incappando in business di volta in volta sbagliati, eppure si è sempre rialzato e ha ricominciato da capo. Non c'è sfida che non si senta in grado di affrontare, e anche questa, che all'apparenza è solo la semplice riparazione di un paio di pantaloni sdruciti, dissestati, per Jacob invece ha l'aria di una conquista in piena regola. Un oggetto d'uso quotidiano, un paio di calzoni, per molte persone che lavorano è molto più importante di quanto si immagini, e questo Jacob Davis lo sa bene. Se si deve far fatica per portare a casa il pane, è meglio farlo dentro abiti comodi e adatti all'attività che si svolge. Jacob stava cercando di trovare un modo per rendere i pantaloni più resistenti. E proprio in quel momento gli è caduto l'occhio sulla coperta per cavalli che aveva lì nel suo negozio. E si è accorto che i punti di giunzione della coperta erano rinforzati con dei rivetti di metallo. E allora si è detto, posso provare a mettere dei rivetti di metallo come questi nei pantaloni e vedere cosa succede. Ha funzionato. La storica Lynn Downey lo ricorda con aria meravigliata. Dalla semplice richiesta di una cliente è scaturita in Jacob Davis l'idea rivoluzionaria di rinforzare il tessuto dei pantaloni con piccoli rivetti metallici per fissare meglio le tasche e rendere l'indumento nel complesso più resistente. I pantaloni, rinforzati con quei piccoli bottoncini di rame, riscuotono un successo immediato. In poco più di un anno, Davis fabbrica e poi vende oltre 200 paia di pantaloni rinforzati, tanto che altri sarti iniziano pian piano a imitarlo. E pensare che tutto era in iniziato con pantaloni sdruciti di un marito in sovrappeso, un disturbo che a Jacob aveva fatto incassare la bellezza di $3. Per fortuna, l'intraprendenza del signor Davis non si esaurisce certo qui. Quindi cosa fa? Scrive una lettera a Levi Strauss e gli manda qualche paio di pantaloni con un corriere espresso e gli dice: ho un'idea che ci farà fare un sacco di soldi. Se lei acconsente a pagare per il deposito del brevetto, poi potremo metterci insieme a produrre questo nuovo tipo di pantaloni da lavoro. Che ne pensa? Jacob Davis si spinge più in là. Quella dei rivetti da applicare sui pantaloni gli sembra un'intuizione troppo ghiotta per lasciarla confinata nel suo piccolo negozio di Virginia Street a Reno. Decide di tentare l'impensabile. Scrive a Levi Strauss, il rinomato fornitore delle stoffe che usa abitualmente per i suoi lavori, e gli racconta della sua scoperta. Suggerisce a Levi l'idea di brevettare la sua grande invenzione, raccontandogli di essere un umile sarto di provincia e di non possedere i $68 che servirebbero per provvedere da solo alle spese per la registrazione del brevetto. Gli chiede di metterci i soldi, proponendogli di diventare suo socio al 50%. Levi non ci pensa due volte. Non solo trova che la proposta sia allettante, ma invita Davis a San Francisco per definire i dettagli di persona. Può darsi che i due ancora non se ne rendano conto, ma alla stessa stregua dei padri fondatori o dei firmatari della prima Costituzione, anche loro stanno scrivendo un pezzo di storia americana. Jacob Davis e la sua famiglia arrivano a San Francisco il 26 aprile 1873. Meno di un mese più tardi, il 20 maggio, Davis e Levi Strauss registrano il brevetto dei nuovi blue jeans rinforzati con rivetti metallici. All'inizio, i nuovi pantaloni sono prodotti a mano da alcune sarte che lavorano ciascuna a casa propria, ma la crescente domanda fa sì che diventi necessaria la costruzione di una vera e propria fabbrica a San Francisco, interamente dedicata alla produzione del nuovo, strabiliante articolo. Davis viene nominato supervisore della struttura e lo resterà per tutta la vita, nonostante intorno ai primi anni del Novecento decida di cedere la sua parte del brevetto alla Levi Strauss & Company. La richiesta dei nuovi pantaloni si fa sempre più pressante. A parlarcene è Bob Haas, bisbisnipote di Levi Strauss in persona. Nel giro di poco tempo, la gente cominciò a parlare di quei pantaloni del signor Levi. Ecco perché noi oggi li chiamiamo Levi's. In breve, i jeans Levi's diventano un must per tutti i lavoratori dello stato della California. I minatori sono entusiasti delle proprietà dei loro nuovi calzoni. In particolare, le tasche, rinforzate dai famosi giunti metallici, non si strappano più come un tempo e consentono ai minatori di infilarci dentro martelli, picconi e pesanti oggetti di ogni sorta. Anche i cowboy e i rancher sono molto soddisfatti del nuovo prodotto. Non avevano mai avuto pantaloni da lavoro tanto solidi. Certo, l'uso massiccio degli speroni continua a costituire un problema, come ricorda ancora Lynn Downey. Questi sono chiaramente morsi da speroni. È proprio il tipo di strappo che si ottiene quando la stoffa della gamba dei pantaloni viene strappata dalla rotella degli speroni, che provoca parecchi danni. Strappati sul fondo o con gli orli perfettamente integri, quei jeans promettono in ogni caso di durare un'eternità. A distruggerli non ci pensano le fatiche delle miniere, gli sfregamenti contro le selle e i finimenti dei cavalli, la polvere, il grasso, le intemperie. Per annientarli e ridurli a brandelli ci vuole ben altro. Ci vuole addirittura un terremoto. Ed è proprio il tremendo terremoto che sconquassa la città di San Francisco nel 1906 a mettere a dura prova la fabbrica della Levi Strauss & Company di Market Street. E ancora una volta l'archivista e storica Lynn Downey a ricordare quei terribili momenti. Gli uffici erano stati ridotti a un cumulo di macerie. Quel giorno abbiamo perso un pezzo della nostra storia. Per sua fortuna, Levi Strauss non ebbe modo di assistere alla distruzione di gran parte della sua fabbrica e dei suoi prodotti. È morto giusto qualche anno prima, nel 1902, lasciando la sua florida azienda in eredità ai quattro nipoti, Jacob, Louis, Abram e Sigmund. La struttura della fabbrica e il suo contenuto fatto di stoffe e macchinari sono stati fortemente danneggiati dal terribile incendio seguito al terremoto. Eppure, la Levi Strauss & Company, negli anni immediatamente seguenti al disastro, non fa fatica a rialzarsi. Il successo dei suoi jeans è in crescita costante e inarrestabile. Il nuovo imperativo aziendale dei nipoti di Levi è rialzarsi e fare meglio e più di prima. Gli insegnamenti del lungimirante zio Levi, del resto, riecheggiano continuamente nella loro testa. Gli oggetti sono importanti. Solo loro hanno il privilegio di portare con sé le prove che, nel corso dei secoli, agli uomini hanno portato grandi cose. E quale oggetto migliore di un paio di jeans può aiutare a raccontarci la storia dell'America intera? Non ha dubbi in proposito Paul Trinca, autore del libro Denim, From Cowboys to Catwalks. L'America ha vissuto tutta la sua vita indossando un paio di jeans. Dalla sinergia di due menti brillanti, dall'unione delle intuizioni di due uomini abituati a rimboccarsi le maniche e andare avanti, costi quel che costi, sono nati i blue jeans più famosi di tutta l'America. Un simbolo imprescindibile in un paese che ha costruito la propria forza sul lavoro e sulla conquista delle libertà personali, prima di tutte quella di poter esercitare la propria professione in condizioni ottimali. Da strumento nelle mani, anzi nelle gambe, di milioni di lavoratori in tutta America, i Levi's nel corso del Novecento si trasformano in qualcosa di più. Diventano un simbolo della gioventù, dell'emancipazione e del progresso, che investirà come un tornado il cosiddetto secolo breve. We are boys from the leading. We are the heart of Saturday night. Destini incrociati. A Destini incrociati ripercorriamo la storia dei jeans Levi's, pronti a trasformarsi da semplice simbolo dei lavoratori a ben altro. C'è stato un momento in cui i Levi's hanno smesso di essere semplicemente dei pantaloni da lavoro e sono diventati una vera e propria dichiarazione di libertà e di moda anche. Tim Gunn, della Parsons School of Design, ne è certo. A un certo punto della storia americana, i jeans inventati da Levi Strauss e Jacob Davis hanno cominciato ad essere molto più di una normale tenuta da lavoro, per quanto pratica e funzionale. I Levi's hanno travalicato i confini dell'oggetto, entrando piano piano nella mitologia, nell'orgoglio storico di una nazione intera. E ancora lo scrittore Paul Trinca a intervenire sull'argomento. Ovunque tu fossi, in America, volevi quel look da cowboy e lo copiavi dallo stile di chi viveva nei ranch. Non solo ovunque tu fossi, ma anche chiunque tu fossi, maschio o femmina, senza distinzione. I blue jeans tra le donne, infatti, cominciano ad avere popolarità, proprio grazie all'abbigliamento e allo stile tipico dei ranch. Tanto che persino una rivista patinata come Vogue, già nei primi decenni del Novecento, pubblica servizi di moda che illustrano quanto sia cool l'abbigliamento da ragazza del ranch. E qual è l'elemento fondante dello stile della cowgirl? I blue jeans, naturalmente. La passione per i jeans, lentamente e inesorabilmente, inizia a diffondersi anche a livello nazionale, al di fuori dei recinti nelle praterie. Complice di questa trasformazione è certamente il cinema, che celebra i suoi eroi in celluloide, imprimendoli nell'immaginario di milioni di persone. John Wayne è uno dei primi miti in sella a un cavallo che celebri in tutto e per tutto lo stile ruvido e polveroso del cowboy, incarnandolo dalla testa ai piedi. Tutto merito del suo aspetto e in particolare dei suoi blue jeans. L'enorme diffusione del cinema produce un altro effetto. Se i Levi's avevano già smesso di essere una questione che riguardava solo il West americano, ora addirittura smettono di essere una questione puramente nazionale e travalicano i confini statunitensi, come ricorda lo scrittore Paul Trinca. Il cinema ha fatto sì che la Levi's si diffondesse enormemente al di fuori della West Coast degli Stati Uniti, La Seconda Guerra Mondiale, poi, non ha fatto altro che amplificare il fenomeno. A parlarcene è di nuovo l'archivista e storica Lynn Downey. Quei soldati americani erano in Europa, in Giappone, e portavano questi pantaloni. Tutto il mondo li vedeva e sapeva che quelli erano i blue jeans. Era quello che indossavano gli americani. Il mondo intero resta affascinato dallo stile americano, da quel mix di coraggio, sbruffoneria e sicurezza di sé che i blue jeans sembrano emanare direttamente dalle fibre del tessuto denim. Grandi e piccini vogliono indossare a tutti i costi un paio di blue jeans e sono disposti a tutto, come ricorda Bob Haas, bisnipote di Levi Strauss. I 501 erano un oggetto di culto. I bulli se ne andavano in giro per la scuola seminando il terrore e collezionando fettuccine rosse dei Levi's. Da qualche parte in America c'è un uomo che una volta era un duro e da qualche parte ha ancora tutta quella collezione di fettuccine rosse. L'importanza simbolica di un singolo, minuscolo oggetto a volte può risultare davvero sorprendente. Nemmeno il nostro paese è immune al fascino dei blue jeans se un eroe nazionale come Adriano Celentano ha sentito il bisogno di decantarne le proprietà. In effetti, l'immaginario cui i blue jeans sono legati è troppo persistente per essere ignorato e quella dei jeans è una mitologia che, proprio come la storia, subisce continue e funamboliche evoluzioni. Gli uomini che tornavano dalla guerra spendevano un sacco di tempo sulle motociclette, con i loro jeans, una maglietta bianca e la giacca di pelle. Quindi il passaggio tra i jeans, l'idea di pericolo e quella di ribellione, è stato molto rapido. Si è passati negli anni 50 dal vecchio cowboy al nuovo cowboy in sella alla sua moto. James Dean e Marlon Brando sono solo due dei giovanotti in blue jeans che contribuiscono alla creazione della mitologia del ragazzaccio. Alcune persone hanno cominciato a pensare che il solo fatto di portare dei jeans facesse di te un delinquente in erba, uno pronto a saltare in sella alla sua moto e a fare a pezzi tutte le regole della società. Dalla ribellione degli anni del boom ai moti pacifisti che vanno di pari passo con lo scoppio della guerra in Vietnam, i blue jeans sono sempre, indiscutibilmente, una costante, come ricorda Tim Gunn della Parsons School of Design. Se fai attenzione ad ogni tipo di cultura creativa, la Beatnik Generation, ad esempio, ha sempre i jeans al centro del suo abbigliamento. I jeans fanno un salto ulteriore e in quegli anni diventano sinonimo di rock and roll, la musica della gioventù per eccellenza. Tutti i giovani appassionati di musica indossano i blue jeans e in essi si identificano. Bob Dylan apre i suoi concerti salendo sul palco con una chitarra e un paio di blue jeans, trasformando un semplice indumento in una vera e propria dichiarazione di intenti. Al di là delle occorrenze metaforiche, comunque, i jeans continuano ad essere un indumento comodo e pratico, perfetto per le esigenze dei ragazzi che in quegli anni di fermento protestano in giro per le strade d'America e hanno bisogno di muoversi con agilità, scappare velocemente dalla polizia che li rincorre. È così che la Levi's si radica ancora di più nella cultura giovanile. Gli hippie, per la maggior parte, sono idealmente associati alla città di San Francisco, la città dove vengono fabbricati i jeans Levi's. Cosa vuoi metterti al festival di Woodstock se non un paio di blue jeans? Posso tagliuzzarli, allungarli, accorciarli, ricamarli, attaccarci i pendagli. Posso rendere questo paio di pantaloni uguali a quelli che porta ognuna delle 160.000 persone che sono qui a Woodstock, diversi da tutti gli altri. Il richiamo del brand si unisce in questo caso alla costante ansia creativa che serpeggia nel movimento hippie, che si fonda anche sul principio di rimarcare e incoraggiare la diversità. Simbolo d'appartenenza e insieme di differenze, indossato da soldati e da rockstar pacifiste, da minatori e cowboy, da lavoratori indefessi e da giovani ribelli e svogliati. C'è un paio di jeans per ogni occasione della vita e della storia degli ultimi 100 anni. Nel raccontare la storia dell'abbigliamento e più in generale della società e della cultura, dobbiamo tenere presente che il denim è al centro di tutto e lo sarà sempre. Tanto science.